L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri, 8 giugno, era il 160° giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5:35 e tramontava alle 20:43. La luna, calante, sorgeva alle 23:33 e discendeva alle 7:53. Potevate cogliere nel vaso o nell'orto pomodori, fragole, ciliegie, oppure seminare lenticchie o piselli. L'altro ieri avvenne. 8 giugno dell'anno 1452, Attila invade l'Italia. 1783, in Islanda, il vulcano Laki inizia un'eruzione che durerà 8 mesi, ucciderà più di 9.000 persone e darà il via a una carestia di 7 anni. 1887, Hermann Hollerith ottiene il brevetto per il suo calcolatore a schede perforate. 8 giugno 1914, in Italia, la Settimana Rossa. 1941, Seconda Guerra Mondiale, gli alleati invadono Siria e Libano. 1949, celebrità di Hollywood vengono nominate in un rapporto dell'FBI come membri del Partito Comunista degli Stati Uniti d'America. 1984, esce nelle sale Ghostbusters. 2004, primo transito di Venere dal 1882. Moriva l'8 giugno del 1999 all'anagrafe Corrado Mantoni, conduttore televisivo e radiofonico. Fu lui ad annunciare la vittoria della Repubblica nelle elezioni a suffragio universale del 1946. Ci parlano del maccartismo le ragazze dell'almanacco. La storia che vi raccontiamo oggi non ci porterà a scandagliare la vita di un personaggio di spicco del passato, ma parleremo di un periodo storico piuttosto controverso. L'8 giugno del 1949, celebrità del calibro di Helen Keller, Dorothy Parker, Paul Mooney e Jimmy Garfield, i due protagonisti del postino sono sempre più volte, vengono nominate in un rapporto dell'FBI come membri del Partito Comunista degli Stati Uniti d'America. Siamo all'inizio del maccartismo, che attraversa la prima metà degli anni 50, un atteggiamento di anticomunismo assoluto, che si concretizza in una visione politica manichea e una vera e propria persecuzione di donne, uomini e istituzioni dichiarati anti-americani in quanto comunisti. È il momento del più esasperato anticomunismo statunitense del secondo dopoguerra, che dà luogo a una serie di purghe politiche ad ogni livello e in ogni campo, ma soprattutto in quello intellettuale. Possiamo dire che storicamente il maccartismo rappresenta il culmine della guerra fredda nella politica interna degli Stati Uniti. Siamo tra il 1949 e il 1954. Beh, è una storia torbida, come in ogni storia torbida in cui si tentano di distruggere gli strumenti di lotta di lavoratrici e lavoratori, c'è il Mr. Merda del caso. Il nostro Mr. Merda in questione è il senatore repubblicano del Wisconsin, Joseph McCarthy. Di fatto il maccartismo però è preparato durante il mandato del presidente democratico Harry Truman, con la formulazione della cosiddetta dottrina Truman per il contenimento del comunismo e dell'espansione sovietica in tutto il mondo. La paranoia della congiura contro la democrazia è il grimaldello del presidente Truman, che nel suo famoso intervento radiofonico del 47 non lascia dubbi sul caso. La scelta tra bene e male deve essere categorica. E aggiunge: è giunto il momento in cui ogni nazione deve scegliere tra modi di vita alternativi. Uno, fondato sulla volontà della maggioranza e su istituzioni democratiche. L'altro, basato sul volere di una minoranza imposta a forza e caratterizzato da terrore e oppressione. Ecco, e quindi il braccio esecutivo di questa folle persecuzione è proprio il nostro McCarthy Mr. Merda, che con terrore e oppressione di certo non ci va leggero. Allora, la sua crociata inizia con la denuncia di 205 simpatizzanti comunisti all'interno del Dipartimento di Stato. Ma bastava poco per essere accusati, bastava essere abbonati a una rivista sospetta, aver letto uno dei libri pericolosi, aver partecipato ad attività per rivendicazione di diritti sociali e tac, finiti dritto dritto nella lista nera del procuratore. E lì di tutto, processi sommari, prove create ad hoc o inesistenti e domande durante i processi assurde, tipo: lei la conosceva Mary la macellara della Fifth Avenue che 15 anni or sono acquistò da Thomas il giornalaro una copia del Daily Worker? Insomma, un'isteria generale che attraversava da nord a sud il paese e che porta tutti ad essere diffidenti l'un con l'altro, ma per la serie... Chi? Mi cugina Dorothea comunista? No, non l'ho mai conosciuta. Oppure: io, se fossi te, non parlerei. La tua fonte è comunista e non è che lo sei pure tu? Che ci nascondi? Quindi capite bene che su un piano sociale e politico il maccartismo rappresenta, oltre a una rivincita della destra americana, anche lo spostamento verso destra di tutta la società e dei democratici. Vengono fatte fuori tutte le organizzazioni sindacali di sinistra con l'accusa di essere coperture, di lavorare per il Partito Comunista Sovietico. I lavoratori per lavorare devono firmare dichiarazioni di non comunismo e fede nella bandiera americana. E se non lo fai, vai a casa di là. Ma un attacco particolare è riservato ai giornalisti e ai lavoratori del cinema. Perché già a Hollywood, fin dagli anni 30, aveva conosciuto un'intensa politicizzazione. Erano nati sindacati di attori, registi, sceneggiatori e maestranze del set, spesso in lotta per la libertà creativa e le rivendicazioni salariali. Per vedersi imprimere il marchio di comunista, però, era veramente sufficiente aver diretto un film di impegno civile o, non so, su tematiche sociali o aver scritto una sceneggiatura. A volte poteva bastare anche meno, come l'amicizia o la frequentazione di persone sospette. 3-2-1, sei fuori dai giochi. E sapete chi erano i pericolosi bolscevichi che tramavano tra le ridenti colline di Hollywood? John Huston, Katharine Hepburn e quel bono di Humphrey Bogart, che, come ci confermano dalla loro manuale, era effettivamente un comunista. Bogart, a voi sei una comunista, pure a voi! Anche il grande Charlie Chaplin finì in questo girone infernale, che povero migra dalla Germania nazista verso la libera America. Torna giusto per un attimo a casa in Europa e tac, l'FBI lo accusa di attività sovversive senza alcuna prova e il cancella il visto di ritorno. E nel frattempo è in discussione la costituzionalità della legge secondo cui i migranti giunti in America, se diventano comunisti, possano essere immediatamente espulsi. E chiaramente, se c'è qualcuno che fugge, c'è sempre qualcuno che insegue. E a dar man forte a Mr. Merda McCarthy troviamo in ordine con la spia di Joe Wayne, quelle caviali di Gary Cooper e Dulcis in fondo, rullo di tamburi, quell'infame di Walt Disney, che oltre ad avere il vizietto di nascondere i nazisti, durante le riprese del dolcissimo Dumbo, denuncia e manda bevuti tutti i lavoratori del set che erano in sciopero. Poi dice perché papà non ce lo voleva far vedere. Ed eccoci arrivati al maggio del 49, quando Mr. Merda McCarthy accusa davanti a 20 milioni di telespettatori gli alti gradi dell'esercito. Too much pure per il presidente Eisenhower, che contrattacca denunciando la totale assenza di prove concrete sulla presunta infiltrazione comunista nel Dipartimento di Stato e nell'esercito. Ma come sappiamo la rota gira, e la storia pure. E così nell'inverno del 1954 il Senato americano a maggioranza democratica decide di censurare gli atteggiamenti aggressivi del senatore del Wisconsin e di condannarlo per condotta contraria alle tradizioni del Senato. Considerate che in 165 anni era la terza volta che veniva sanzionato un membro del congresso con questa accusa. Così Mr. Merda McCarthy si dà all'alcol e dopo qualche ricovero muore. Chiudiamo con le parole di qualcuno che ha vissuto il clima pazzesco di questa folle caccia alle streghe. Di seguito un piccolo passo della dichiarazione resa nel 14 giugno del 1949 davanti al Senato Accademico dell'Università della California da Ernst Kantorowicz, grande medievista, che motiva così il rifiuto di prestare il giuramento anticomunista richiesto ai professori universitari. È un rifiuto che gli costa la cattedra. La storia dimostra che non ci si guadagna mai a cedere all'impatto dell'isteria del momento e a mettere a rischio, per qualche vantaggio temporaneo o temporale, i valori permanenti ed eterni. Il nuovo giuramento è un atto tirannico. La Settimana Rossa fu un'insurrezione popolare sviluppatasi ad Ancona e propagatasi dalle Marche alla Romagna, alla Toscana soprattutto, ma anche in altre parti d'Italia, tra il 7 e il 14 giugno 1914, come reazione all'eccidio di 3 manifestanti avvenuto ad Ancona ad opera della forza pubblica. Il 7 giugno 1914 ricorreva l'anniversario della concessione dello Statuto Albertino. Su Volontà, il giornale degli anarchici anconitani, si leggeva: il 7 giugno è la festa del militarismo imperante, faccia il popolo che diventi giorno di protesta e rivendicazione. L'opposizione alle politiche di guerra non era una lotta puramente ideologica. La missione in Libia impegnava moltissimi lavoratori che venivano chiamate alle armi e, dopo aver abbandonato casa e famiglia, subivano una formazione militare che significava semplicemente disciplinamento e repressione. Esistevano compagnie di disciplina nell'esercito, dove molti militanti rivoluzionari venivano inviati a scopo rieducazionale. Pertanto, ad Ancona, come in altre località delle Marche, furono convocati comizi antimilitaristi per chiedere l'abolizione di queste compagnie, per protestare anche contro il militarismo, contro la guerra in Libia e a favore di Augusto Masetti, per raccontare la storia di Augusto Masetti e Antonio Moroni, due militari di leva. Il primo era rinchiuso come pazzo in manicomio criminale per aver sparato al suo colonnello prima di partire per la guerra in Libia. L'altro, invece, era stato inviato appunto in una delle compagnie di disciplina per le sue idee. Era un socialista della linea sindacalista rivoluzionaria. Quindi, il presidente del Consiglio Talandra, temendo che le varie manifestazioni programmate dagli anarchici, dai repubblicani e ai socialisti potessero degenerare in turbamenti dell'ordine pubblico, decise di proibirle. Gli organizzatori dell'iniziativa di Ancona, così, tra cui per esempio il repubblicano Nenni, Pietro Nenni, l'anarchico Enrico Malatesta e anche un giovane Benito Mussolini, all'epoca socialista, decisero di spostare il comizio pubblico in una sede privata, esattamente nel circolo repubblicano di Ancona, Gioventù Ribelle, che era noto a tutti come Villa Rossa, questo alle ore 16 del pomeriggio. Così, mentre i monarchici e liberali festeggiavano con le fanfare a seguito lo statuto concesso dal monarca sabauda Carlo Alberto, anti reagivano poco più in là, quando verso le ore 18:30 la riunione ebbe termine e i partecipanti cominciarono a lasciare l'edificio. Furono circondati dalle forze dell'ordine, che volevano evitare che potessero spostarsi nella vicina Piazza Roma, dove appunto si stava tenendo il concerto della banda militare, nell'ambito delle celebrazioni della festa dello Statuto. Quando nel mezzo della zuffa tra forze dell'ordine e manifestanti si udirono i primi colpi di arma da fuoco, nessuno capì da quale direzione provenissero. Poco dopo i carabinieri cominciarono a sparare indiscriminatamente, Antonio, che faceva il commesso, Nello, che era un facchino, Attilio, che era un tappezziere, vennero colpiti e non sopravvissero. L'omicidio dei tre manifestanti divenne presto di dominio pubblico. L'8 giugno ci fu un comizio in Piazza Roma, nel quale parlarono Pedrini ed altri della Camera del Lavoro, Nenni e Malatesta. Ad Ancona i ceti popolari insorsero saccheggiando l'armeria Alfieri, mentre nel resto d'Italia venivano indette manifestazioni di sostegno. Iniziò così la cosiddetta Settimana Rossa, caratterizzata da scioperi ad oltranza e da violenti scontri tra lavoratori e polizia, che portarono diverse città ad essere di fatto controllate dagli insorti. Dinanzi all'escalation di insurrezione, il fronte dei manifestanti si spaccò. Da una parte la Confederazione Generale del Lavoro dichiarò la fine degli scioperi, mentre anarchici, socialisti massimalisti e sindacalisti rivoluzionari invitavano alla prosecuzione delle rivolte. Alla fine, dopo 7 giorni di scontri, l'ordine fu ristabilito, anche grazie al massiccio intervento dell'esercito. La Settimana Rossa, in particolare nelle zone dell'Anconetano e del Ravennate, lascerà una traccia profonda nell'immaginario popolare come un momento in cui il proletariato aveva unitariamente dato prova della propria combattività, arrivando a sfiorare per un fugace attimo l'ebbrezza della rivoluzione sociale. Malatesta scriveva sul periodico anarchico Volontà del 13 giugno, intitolando il suo articolo «La rivoluzione in Italia, la caduta della monarchia sabauda», queste parole. Non sappiamo ancora se vinceremo, ma è certo che la rivoluzione è scoppiata e va propagandosi. La Romagna è in fiamme, in tutta la regione, da Terni ad Ancona, il popolo è padrone della situazione. A Roma il governo è costretto a tenersi sulle difese contro gli assalti popolari. Il Quirinale è sfuggito per ora all'invasione della massa insorta, ma è sempre minacciato. A Parma, a Milano, a Torino, a Firenze, a Napoli, agitazioni e conflitti, e da tutte le parti giungono notizie incerte, contraddittorie, ma che dimostrano tutte che il movimento è generale e che il governo non può porvi riparo. E dappertutto si vedono agire in bella concordia repubblicani, socialisti, sindacalisti ed anarchici. La monarchia è condannata, cadrà oggi o cadrà domani, ma cadrà sicuramente e presto. Qui finisce l'almanacco, un saluto a tutte e tutti e un pensiero forte a tutte quelle e tutti quelli che resistono. È finita la commedia.